È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui 18:38 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, messaggi SMS 349 238 6666, la zanzaretta radio24.it, i titoli del TG2. Berlusconi: non ho mai pensato a elezioni anticipate, con Fini non ho nulla da chiarire, se la maggioranza cade non se ne fa un'altra, dice il Presidente del Consiglio. Sugli immigrati polemica Bossi e Fini. Erano in tre a picchiarlo e non mi sembravano carabinieri, sono le parole del super testimone del caso Cucchi, trasferiti i tre medici coinvolti nell'indagine. Chiesta la conferma della condanna a 30 anni al processo d'appello per Rudy Ghedè, accusato dell'omicidio di Meredith Kircher, lui dice: non l'ho uccisa, non l'ho violentata. Scrive frasi d'amore davanti alla casa della ex fidanzata per riconquistarla e il padre di lei, infastidito, prende il fucile e gli spara alle gambe. L'uomo è finito in carcere a Roma, il fidanzato infelice è ricoverato in ospedale. Allora, qualche parola sulla vicenda dell'acqua, su cui si fa un terrorismo inaudito, un terrorismo senza senso. Per una mini riforma ci vorrebbero riforme anche più radicali sui servizi pubblici locali, invece tutti sostengono che l'acqua passerà ai privati, che sarà un disastro, che pagheremo di più, che magari verrà razionata. Qualcuno, sentirete, dice che resteremo senza acqua perché non riusciremo a pagarla. Qualche titolo dai telegiornali di ieri. L'acqua ai privati, il governo blinda il decreto legge, proteste degli ambientalisti. Il governo pone la fiducia sul decreto che dà in mano ai privati il servizio idrico, le opposizioni battaglia in aula, ambientalisti mobilitati. Ambientalisti mobilitati per che cosa? Non si capisce, come se la gestione dell'acqua attuale da parte del pubblico fosse una cosa meravigliosa e non ci fossero intoppi da tutte le parti, e soprattutto al sud una gestione poco virtuosa. Antonio Di Pietro ci mette il suo in questo terrorismo, lo chiamo così, terrorismo sulla vicenda dell'acqua. In realtà succede pochissimo, succederà pochissimo, si mettono a gara alcuni servizi, adesso non scendiamo nei particolari tecnici, ma certamente non è l'acqua ai privati. Ma sentite come la affronta il nostro tribuno preferito, un paragone con le sigarette. Cosa c'entra, Di Pietro? Se tu vai a comprare un pacchetto di sigarette, paghi e ti dà il pacchetto di sigarette. Se non paghi, non ti dà il pacchetto di sigarette. Ma se hai sete? No, dico, se hai sete, che fai? Se non hai soldi per bere, che fai? Non bevi. Se non puoi pagare la bolletta dell'acqua, che fai? Non bevi. Muori di sete. L'acqua e l'aria sono beni pubblici, sono dell'umanità. Non si possono privatizzare, ci sono cose essenziali nella vita che non lo puoi vendere ai privati. Strepitoso ancora Di Pietro, sentite come fa terrorismo, secondo me, su questa storia dell'acqua. Non è il solo, ma certamente ci mette del suo. Il governo del malaffare ha colpito ancora, il governo degli affari propri, il governo degli intrallazzatori. Questa volta ha colpito in uno dei beni più preziosi. E l'acqua pure se la stanno rubando, se la sono rubata mettendo il voto di fiducia. Il voto di fiducia a un provvedimento che questo governo ha fatto approvare da un Parlamento, da una maggioranza parlamentare asservita, venduta, comprata, ricattata, che ha votato un provvedimento che privatizza la gestione dell'acqua. Cioè l'acqua lo gestisce il privato, secondo questi signori. E il privato, secondo voi, come lo gestisce? Lo gestisce da imprenditore. E l'imprenditore che fa? Quando deve vendere un prodotto, lo vende se ci guadagna. E glielo dà a chi lo compra. Ma che cosa strana questa economia di mercato? Che invenzione nuova? Che cosa bizzarra? 800 24 00 24. Si parla sempre più insistentemente, anche se c'è stato oggi un comunicato di Berlusconi, di elezioni anticipate. Vota Antonio la trippa! Vota Antonio. Alessandro Sallusti, condirettore del giornale. Si sta andando molto velocemente verso l'ipotesi di elezioni anticipate. Questo non è un bene, ma è un male necessario. Male necessario perché la maggioranza, per dei problemi che ha al suo interno, non è più in grado né di garantire Silvio Berlusconi dall'offensiva giudiziaria e di conseguenza non è in grado di garantire le riforme, le leggi. Tutto nasce da quello che ha detto Schifani. Oggi molti giornali titolano su questo, sulle frasi di Schifani, che a mio parere sono abbastanza scontate, sono abbastanza ovvie. Qualcuno le ha interpretate come un messaggio a Napolitano, addirittura nei meandri e nel politichese incomprensibile ai più. Schifani di ieri. Compito della maggioranza è garantire che in Parlamento il programma del governo trovi la compattezza degli eletti per approvarlo. Se questa compattezza viene meno, il risultato è il non rispetto del patto elettorale. Se ciò si verificasse, giudice ultimo non può che essere, attraverso nuove elezioni, il corpo elettorale. E chiudiamo con il nostro strepitoso Don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, scatenato contro le convertite di Gheddafi. È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei. Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori. Ed ecco tornare Satana, Satana che ispira le parole di Alda Ribeiro, la ragazza che è stata nostra ospite ieri e che secondo Fanzaga, oggi questa ragazza ha dato un'intervista al Corriere della Sera, e che secondo Fanzaga, leggendo il Corano attraverso l'iPhone, è ispirata direttamente dalla coda del diavolo. Gheddafi ha avuto successo, ha convertito una, vediamo, naturalmente quella lì che si è convertita ha fatto una volata a esibirsi i giornali, no? Così è andata sui giornali, hai capito? Dunque, la ragazza stregata da Gheddafi studiò l'Islam. Vediamo. L'incontro con Muammar Gheddafi mi ha cambiato. Da due giorni lei va in giro con l'iPhone connesso al sito www.corano.eccetera e legge assorta le sure. Chissà se avrà, se le legge davvero. Convertirmi, di sicuro la chiesa di oggi è troppo chiusa in se stessa. Hai capito? Sentili, capito? Ci vuole poco, eh? Un fischio della biscia e subito Eva striscia. Qualche assaggio di una puntata surreale ieri sera di Porta a Porta, non so se alcuni di voi l'hanno vista, si parlava dei cani, si partiva dalla vicenda parlamentare, della discussione sulle orecchie e sulle code dei cani, tre giorni ancora non è finita, e poi si è andati a parlare su una vecchia questione, quella dei cani randaggi, strepitoso l'intervento, per modo di dire strepitoso, del ministro Brambilla. È ora di finirla. L'Italia si presenta al mondo come il paese dove in Sicilia ci sono cani randaggi che sbranano le persone, dove in Sardegna il turista, per esempio, sono ministro del turismo, lo so bene, viene accolto da branchi di cani randaggi magrissimi. È un paese dove i cani vivono alla catena, è un paese dove si fanno i combattimenti, è un paese dove c'è voluto questo governo per dare uno stop anche al traffico dei cuccioli dell'est. E per quanto riguarda la coda e le orecchie, questa è una barbarie che ubbidisce a standard di razza che non sono stati scelti dal cane ma creati dall'uomo. Beh, insomma, a parte il governo, che solo questo governo, dice la Brambilla, ha interrotto il traffico di cuccioli dall'est, una notizia che non sapevamo che potrebbe essere comunicata dal governo. Poi c'è la questione dell'immagine che hanno la Sicilia e la Sardegna. Secondo la Brambilla, l'immagine che esce fuori è quella del branco di cani che si trova di fronte un turista quando atterra in Sardegna oppure in Sicilia. Branco dei cani che ti assale. Va bene. Stefano, provincia di Padova. Buonasera, dottore. Dica. Sì, io volevo intervenire sull'argomento dell'acqua. Per dire che io chiamo dalla provincia di Padova. Sì. E sono servito da una multi utility pubblica che funziona molto bene. Sì. Quindi io, la dico chiara e netta, sono proprio contrario a questa gestione privatizzata che si prospetta dell'acqua. Però mi scusi Stefano, non si prospetta nessuna gestione privatizzata. C'è la possibilità che avvenga. Concludere? No, ma le dico, guardi, Al di là adesso degli aspetti tecnici, io dico soltanto. Ma non che... c'è nessun aspetto tecnico, guardi. Va bene, adesso non entriamo nel merito. No, ma lei dice. Lei dice che non è una privatizzazione. No, ma non è che dico che non è una privatizzazione. Va bene. No, ma un attimo solo, Stefano. Lei è partito da una considerazione, mi scusi, no? Si prospetta la privatizzazione dell'acqua. Non è così, perché si grida. D'accordo. E allora qual è, che cos'è che non le sta bene? Non ho capito. Ammettiamo che sia così. Allora io dico che come ho tagliato per esempio l'acquisto dell'acqua minerale in bottiglia, perché è un acquisto secondo me inutile indotto dalla pubblicità che fanno anche molte radio e che da cui insomma ricevono dei soldi, qualora... Qual è il problema? Non ho capito, ricevere dei soldi per la pubblicità dell'acqua minerale, mi scusi. Questa era una piccola introduzione, vengo dunque dicendo che probabilmente quando insomma... ci saranno dei privati che entreranno, non so a che titolo, nella gestione dell'acqua. Sì, già è successo. Per l'uso domestico, io se vedrò un aumento delle tariffe, non pagherò più la tariffa. Questa è la mia posizione. E riceverà le sue cartelle esattoriali. D'accordo. Stefano, cosa vuole che le dica? Non paghi l'acqua. Non si capisce perché l'Italia debba continuare a essere il paese in cui l'acqua costa di meno, peraltro, con una gestione che qualche volta, non sempre, non sarà il caso di Padova, è abbastanza disastrosa dal punto di vista poi della gestione degli impianti e anche poi della purezza dell'acqua. Ripeto, non è che si aprono le porte ai privati, non è che lo Stato se ne va domani, non è così nella maniera più assoluta. Maurizio, provincia di Roma. Pronto? Maurizio, buonasera, dica. Buonasera, senta, io volevo intervenire sul fatto di Cosentino, se possibile. Sì. Dunque, premesso che la magistratura è indispensabile per una società civile che quindi garantisca il cittadino da tante violenze, tante barbarie, però il problema è un altro. Il problema è che comunque il cittadino, una volta che viene incastrato in un meccanismo, viene massacrato dalla magistratura anche se poi risulta innocente. Magari passa un anno, due anni, intanto o di più, guardate Rizzoli, guardate Tortora, e non ci sono secondo me tutele. Se Cosentino adesso non so se sia innocente, colpevole, berlusconiano, non berlusconiano, però il punto è un altro. Comunque la magistratura interferisce forse troppo pesantemente sulla vita del cittadino, ma anche del cittadino qualunque che può essere incastrato in un settore nel quale non ha nulla a che fare, in una situazione nella quale non ha ma nulla dunque, a che fare. Ma dunque Cosentino cosa dovrebbe fare secondo lei? E Cosentino secondo me... Cioè dovrebbe resistere? Secondo me... Oppure ci sono questioni di opportunità? Ma guardi, lui sa benissimo che rischierà di essere arrestato il momento che viene eletto governatore della Campania, quindi c'è già un futuro previsto. Se è una persona di carattere, secondo me dovrebbe resistere, se ha la coscienza a posto, è una persona di carattere, secondo me dovrebbe resistere e non cambiare, perché Cosentino è diciamo il candidato che potrebbe far vincere, forse, non lo so, ma ha portato, mi pare, il Partito della Libertà ad essere il primo partito, quindi è il candidato con maggiori probabilità di successo per il Popolo della Libertà in Campania. E allora? E allora secondo me dovrebbe insistere, se ha la coscienza a posto. Va bene Maurizio, grazie, grazie. Massimo da Rieti, buonasera. Pronto? Dica. Ah, no, non sono Massimo, sono Mario. Mario, va bene lo stesso, non ci offendiamo. Un paio di minuti. Buonasera Peppuccio Cruciani. Mario, andiamo al sodo, abbiamo poco tempo. No, allora, Maria Teresa da Roma, Maria Teresa da Roma, grazie Mario. Maria Teresa da Roma, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Senta, io telefono per il fatto della manifestazione di Di Pietro che vuole fare il 5 dicembre. Sì. Io sono veramente disgustata da questa persona, questo personaggio, perché per me è un personaggio inqualificabile, per tutto ciò che dice contro Berlusconi. Perché se vabbè, lui... ho capito. Aspetta un attimo, non voglio... Maria Teresa, non facciamo un comizio, comizio. Io vorrei dire soltanto una cosa, che lui non si può permettere il lusso di dire mandiamo a casa Berlusconi, noi l'abbiamo eletto. Che significa, Maria Teresa, che significa? Ognuno può dire, io non aspetto nulla, non aspetto nulla, ognuno può dire. Ascolti un attimo, Maria Teresa, mi faccia parlare. Beh, Di Pietro ha tutto il diritto di dire Berlusconi deve andare a casa. Primo. Sì. Può dire questo. Perché non dovrebbe avere questo diritto? Mi scusi. Ma lo sa perché non ha il diritto? Perché noi l'abbiamo votato. Ma quello fa l'opposizione, vuole cacciare Berlusconi, mi sembra normale che lo dica, no? Lo mandiamo a casa, via, forza Berlusconi deve andare a casa. Ma non dice forza. Si deve muovere finché i cittadini non abbiamo la cosa di dire Berlusconi non ci sta più bene, allora lo maniaca. Ma no, che vabbè, ho capito, deve decidere, sono sì, gli elettori che devono decidere. Berlusconi deve rimanere d'accordo dove sta, perché siamo tanti e lo vogliamo. Va bene, questa d'accordo, è d'accordo, è il solito comizio. La ringrazio. Enrico da Milano. Enrico da Milano, buonasera. Dica. E volevo solo dire a Di Pietro che io, oltre a comprare le sigarette, compro anche l'acqua e la pago. Nel senso che sono da 10 anni e più che nel comune dove ho la casa domiciliato a Eupiglio, provincia di Como, pago l'acqua potabile, come ritengo in molti altri comuni d'Italia, quindi non bisogna stracciarsi le vesti. No, il pericolo che minaccia Di Pietro è che poi l'acqua costerà molto di più. Ma ci sono alcuni esempi, ci sono alcuni esempi in Italia, l'acqua, dove l'acqua comincia a costare di più, dove c'è una gestione dei privati. Beh, allora, io dico che non è un problema, però secondo no, alcuni esempi recenti ci insegnano che laddove si è liberalizzato il mercato siamo andati a spendere meno, vedi low cost, vedi telefoni e oggi vedi l'energia. Titoli del TG3. Berlusconi, la maggioranza è compatta, mai pensato al voto, se cade il governo nessuna maggioranza alternativa. Voto agli immigrati, proposta di legge bipartisan, scontro nel centrodestra, Bossi, mandiamoli a casa, fini gli anatemi non servono. Fiducia sul decreto che privatizza l'acqua, consumatori pronti al referendum, le proteste dove il servizio è già privatizzato. Nel mondo si spendono miliardi di dollari per gli armamenti, dice al TG3 il direttore della FAO, ma ogni 6 secondi un bimbo muore di fame. Il presidente americano ammonisce Israele, costruire nuove case sul territorio palestinese mette a rischio la pace. Il processo d'appello a Rudy Ghedè, non ho ucciso Meredith, dice il giovane ivoriano, l'accusa chiede di confermare la condanna a 30 anni. Bambini sempre più dipendenti dalla TV, personaggi come Belem e Valentino Rossi diventano i nuovi miti dei più piccoli. Andiamo a sentire Sky TG24. Stop di Berlusconi alle elezioni anticipate, vogliamo governare 5 anni, ha detto. Voto agli stranieri a fondo di Bossi, a casa gli immigrati, no di fini agli anatemi. Acqua ai privati, il decreto passa alla Camera, i consumatori invocano il referendum. Collusione con la Camorra, Cosentino non arretra e resta candidato in Campania. Cucchi, trasferiti 3 medici indagati, contraddizioni nel racconto del super testimone. Ghedè si difende, non ho ucciso Meredith, chiesta la conferma della condanna. Scontri al corteo degli studenti a Milano, scarcerati 2 giovani arrestati ieri. Proteste degli operai Fiat in Sicilia, occupato il municipio di Termini Imerese. Chiuso il vertice FAO, il direttore Diouf attacca e grave l'assenza dei paesi leader. Stasera l'amichevole Italia-Svezia, Lippi dribbla i tormentoni e dà spazio ai giovani. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti. La canzone di Battiato, avete sentito dall'ultimo album recentemente in una copertina di XL, supplemento di Repubblica, dice Battiato: c'è davvero qualcosa di inquietante che sta succedendo in Italia. La speranza che invocavo in povera patria è andata spegnendosi. Invettiva l'Italia, così la presenta Repubblica. Poi uno legge e sente, ascolta le parole che pronuncia Battiato e si domanda: ma di cosa stiamo parlando? Nell'intervista che andrà in onda questa sera a Chiamberetti Night, Battiato dice: la musica non si occupi di politica. Avete sentito bene? La musica non si occupi di politica. Dice, per essere precisi, la musica non si dovrebbe occupare di politica. Da cittadino però talvolta bisogna criticare chi ci governa. Io non sono politicamente impegnato, lo sono umanamente. Ma cosa significa fare una canzone di questo tipo e poi sostenere che un artista non si dovrebbe occupare di politica? Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. 800 24 00 24, strepitosa puntata di Porta a Porta ieri sera, direi quasi surreale. A un certo punto c'erano più cani che ospiti, ma sul serio c'erano più cani che ospiti. Sentite l'introduzione di Bruno Vespa. Ministro Barbilla, lei che ha un meraviglioso alano e un bastardino, che ne dice? Ci vado oro, Italia dei valori, ma lei gliele taglia questo bellissimo bracco italiano? Non si tagliano. Angelo Bonelli con il suo sette, presidente De Vero. Buonasera. Allora, ripeti, popolo della libertà, dove lo tiene il suo cane? Allora, Grisby si chiama ed è una femmina, è un meticcio. Si parlava naturalente in primis, dopo anche del randagismo, vi abbiamo fatto sentire prima una Michela Brambilla 2 contro la Sardegna, i cani randagi che sono il vero spettro, il vero incubo per i turisti che si recano in Sardegna e in Sicilia. Si parlava del taglio delle orecchie e della coda dei cani, dibattito in Parlamento per 3 giorni ancora non è finito, un dibattito direi appassionante. Sentite per esempio Cimadoro, esponente dell'Italia dei Valori, che evidentemente Vespa ha scovato come un possessore, amante di cani, sostenere, forse anche amante della caccia, non lo so. Comunque Gabriele Cimadoro, che dice: guardate che non c'è niente di male a tagliare la coda e le orecchie dei cani, eh? Nella caccia ci sono degli standard di qualità e di stile, soprattutto nel cane, che se un questo cane bracco di questo con la coda tipo, renderebbe meno? Questo cane con la coda avrebbe nelle varie stagioni venatorie un'attività intensa, per cui la coda, che ne è un'espressione particolarissima, a un certo punto andrebbe quasi tutte le battute di caccia, dove la sua attività è l'attività prevalente del cane, la più bella per lui, sarebbe ferita ogni volta. In qualsiasi circostanza, nei rovi. Si dibatte accanitamente su questa vicenda del taglio delle orecchie, delle code e dei cani. Interviene anche un esponente della Lega in una strana alleanza tra la Lega e l'Italia dei Valori, Stefano Stefani. La coda di cani va tagliata nell'interesse degli animali, nell'interesse stesso degli animali. Mi spiego meglio, un cane che esercita la caccia, e alcune tipologie di cani che esercitano la caccia, hanno la coda talmente sensibile e possibile a ferite nella macchia, eccetera. Quando a una certa età hanno queste ferite, la coda va in necrosi. La coda va in necrosi. Dunque la caccia impone, secondo Stefani e secondo Cimadoro, il taglio della coda. E allora interviene a questo punto la Brambilla. Sarebbe come tagliare le mani a una persona, nel senso che coda e orecchie per l'animale sono il suo modo di esprimersi, quindi nel momento in cui tagliamo le orecchie diamo all'espressione del cane un volto con le orecchie sempre dritte, bene, quel cane nel momento in cui incontrerà altri suoi simili verrà tenuto lontano, perché in quel modo comunico aggressività. Allora, e questa era la Brambilla. Ma abbiamo uno strepitoso personaggio per oggi nel Radio Londra. Radio Londra di oggi abbiamo ripescato da Micromega, lo sentirete tra poco. Radio Londra. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Moni Ovadia, siamo in esilio, siamo tutti in esilio, finalmente qualcuno la dice, la pronuncia questa parola, è un governo che ci mette in esilio. Nel nostro paese persino neppure è possibile in questa situazione pensare alla politica, fare politica, finché ci sarà questo assetto, cioè l'Italia in mano a un solo uomo e al suo strapotere mediatico, economico e politico, non potremmo vivere partecipando alla vita del nostro paese. È come se ne fossimo esclusi, è come se fossimo stati cacciati, come se fossimo stati mandati in esilio. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Thank you. Alle 19.27 arrivano notizie importanti dal Brasile su una vicenda che abbiamo seguito molto da vicino, che è quella di Battisti. Secondo le ultime notizie, tutto da verificare, siamo in attesa di una decisione, cioè il Supremo Tribunale Federale di Brasilia avrebbe deciso, si sarebbe pronunciato a favore dell'estradizione di Battisti. Poi bisogna vedere in che modo. Vi leggo l'agenzia ANSA: inviato di Alfano avvisa il ministro, Battisti estradabile, ma attesa seconda decisione STF, che è il Supremo Tribunale federale, e dunque una decisione attesa, ma saremo più chiari tra qualche minuto. Dove andiamo per concludere questa prima parte? Al terrorismo, secondo me terrorismo, di Di Pietro sull'acqua. Se tu vai a comprare un pacchetto di sigarette, paghi e ti dà il pacchetto di sigarette; se non paghi, non ti dà il pacchetto di sigarette. Ma se hai sete? No, dico, se hai sete, che fai? Se non hai soldi per bere, che fai? Non bevi? Se non puoi pagare la bolletta dell'acqua, che fai? Non bevi? Muori di sete? L'acqua e l'aria sono beni pubblici, sono dell'umanità, non si possono privatizzare. Ci sono cose essenziali nella vita che non lo puoi vendere ai privati. Eccoci qui, 19.35, 800 24 00 24, vi ripeto, secondo le ultime notizie che arrivano dal Brasile, e sono notizie positive, belle notizie, il Tribunale Supremo Federale avrebbe deciso per l'estradizione di Battisti, così si è pronunciato l'ultimo giudice, che poi è il presidente di questo tribunale. Dunque adesso per il presidente Lula sarà molto difficile negare l'estradizione, l'ultima parola spetta sempre al presidente brasiliano. 800 24 00 24, Carlo da Milano, buonasera. Sì, buonasera, dottor Cruciari. Dunque, io intervenivo sull'acqua, sulla privatizzazione o paventata tale dell'acqua, perché allora, il mio ragionamento parte da un pregiudizio, probabilmente, che la privatizzazione, cioè il privato, con qualsiasi campo in cui, in qualsiasi campo in cui entra, cerca redditività, cerca business, no? Mi mette tristezza pensare che si faccia business con l'acqua, punto primo. Punto secondo, vedo anche una sconfitta dello Stato nei confronti, come si dice, mi sente? Sì, la sento. Ah, scusi, nei confronti di un bene primario come l'acqua, tutto lì. Quindi sicuramente io non sono contro le privatizzazioni, per carità, ero contento quando ho detto privatizziamo le ferrovie, ero studente all'università in quell'epoca. Ma qui è una cosa diversa, non è che si può privatizzare l'acqua, diciamo. Sì, perché magari anch'io. È la gestione dei servizi idrici, la gestione dei servizi idrici, che oggi è affidata a delle aziende locali, a partecipazione pubblica degli enti locali, e invece adesso si vorrebbe aprire un po' di più il mercato da questo punto di vista, cioè dire, potrebbero gestire, già avviene in alcuni casi, c'è un caso ad Arezzo, poi parleremo con il responsabile, con diverse polemiche naturalmente, in altre parti pare sia stato un fallimento questa gestione, comunque in ogni caso si vuole dare anche questa possibilità. È uno scandalo? È una cosa per cui terrorizzare la popolazione e far pensare che l'acqua verrà razionato, che costerà non so quanto? Io non credo. Si gioca, infatti, anche secondo me si gioca un pochino sul discorso dello scandalo, si specula un pochino su questa cosa. In realtà gradirei soltanto che questa gestione fosse un minimo controllata dallo Stato e venisse fatto in maniera oculata, perché comunque l'acqua in effetti non è un bene come il cellulare, ecco, tutto lì, insomma, non è una cosa che dici ok, posso evitare di mandare qualche messaggio in più, bere qualche bicchiere d'acqua in meno è diverso, insomma. Dobbiamo aggiungere che l'acqua in Italia costa meno, molto meno rispetto ad altri paesi. Se costasse un po' di più, dico un po' di più, ci sarebbe tutto questo spreco? Non lo so, è una domanda che mi pongo. Andrea da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Sento, io volevo intervenire riguardo alla manifestazione del 5 dicembre che si terrà a Roma, il famoso Nobby Day. Volevo precisare, sì, ho sentito da più parti che molte persone additano questa manifestazione a Di Pietro, all'Italia dei Valori, e semplicemente volevo tranquillizzare che questa manifestazione è nata da persone, spontaneamente, da persone che hanno prima aperto un sito internet e dopodiché si sono spostati su Facebook, che semplicemente cercherà di essere quanto più apolitica e apartitica. È semplicemente una manifestazione del popolo, delle persone che si sono stufate di certi atteggiamenti di certe persone. Quindi le persone penseranno che ci saranno bandiere di politici o di partiti politici, spero che si sbaglieranno, anche perché se io sapessi che ci saranno bandiere dell'Italia dei Valori o di altri partiti, forse non parteciperei. Io sono uno dei quattro. Andrea, le bandiere ci saranno, anche perché, mi scusi, questa però è una grande ipocrisia. È vero che la mobilitazione è partita da internet, dalla web, chiamatelo come volete, però non è che i partiti siano qualcosa di orrendo o qualcosa di estraneo alla società, fanno parte della società, dunque se un partito poi vuole aderire qual è il problema? Mi scusi, no, Andrea. I partiti sono ben accetti. Ho capito. Tutte le loro idee. E allora? E dunque possono portare anche con le bandiere. Ma è una manifestazione politica, perché. Ma è una manifestazione politica, Andrea? È politica questa qua? Sennò che manifestazione è? Mi scusi. No, principalmente, almeno io che mi ritengo non schierato né da una parte né da un'altra, semplicemente vorrei che l'Italia riacquistasse il valore all'estero e in Italia di un tempo, piuttosto che essere presi in giro additati come... Sì, però Andrea, mi scusi, lasciamo perdere le ipocrisie. È una manifestazione contro Berlusconi, contro la politica, sulla giustizia del governo, contro il governo Berlusconi. Punto. Non è un'altra cosa, per cui lasciamo perdere. È una manifestazione politica, politicissima. Di che stiamo parlando? Ma forse sarà anche politica, io spero che non. Ma non capisco perché le fa schifo la politica. Lei fa politica, no, parlando, perché le fa schifo la politica? Non capisco. Non è che mi fa schifo la politica, semplicemente mi sono disinnamorato, è diverso. Ma se lei vuole andare in piazza il 5 di dicembre, perché? Semplicemente perché mi sono stufato di essere rappresentato da una persona che sta lì e il giorno al governo parlano della lunghezza della coda dei cani. Ma questo che c'entra Berlusconi, non è che è responsabile dei dibattiti parlamentari, di quello di cui si parla in Parlamento. La maggioranza, ma quale maggioranza? Ma che c'entra le code dei cani e le orecchie dei cani con la maggioranza? Andrea, non c'entra nulla, abbia pazienza. Il punto è questo: io non voglio contestare il fatto che lei vuole andare in piazza, per carità, lei ha tutto il diritto di andare in piazza e a pensare che Berlusconi debba essere abbattuto. Il punto non è questo, è una manifestazione politica, una manifestazione contro Berlusconi, che è legittimo fare. Organizzare sicuramente dall'Italia dei Valori. Ma non, diciamo, un gruppo di persone che si sta anche autofinanziando senza chiedere nulla ai partiti. Sì, no, ci saranno anche gruppi di persone che non appartengono ai partiti, non per questo sono più nobili di quelli che invece vanno sotto il vessillo dei partiti. Non capisco cosa ci sia di male alla partecipazione di un partito. Non c'è nulla di male, semplicemente si vuole cercare di evitare che diventi una manifestazione prettamente politica per parlare dei programmi elettorali. È una manifestazione contro Berlusconi, contro la politica sulla giustizia, contro questa norma sul processo breve, punto. E dunque ci saranno persone che la stanno riprendendo con Di Pietro, quando magari lui ha aderito ma semplicemente non la sta organizzando. Mi risulta che ha detto la manifestazione di Di Pietro del 5 dicembre non sarà di Di Pietro. Ma non sarà di Di Pietro, ma insomma certamente Di Pietro avrà un ruolo insieme a Rifondazione Comunista, non neghiamo una cosa del genere. Grazie Andrea, grazie, buona serata. Giovanni, sempre da Roma, buonasera. Intanto il presidente del Supremo Tribunale Federale di Brasilia, Gilmar Mendes, si è detto a favore, come vi abbiamo detto, dell'estradizione di Battisti. I giudici hanno emesso, queste sono frasi invece del nostro ministro della giustizia, Alfano, i giudici hanno emesso il decreto di estradizione, ma in questo momento sono nuovamente in Camera di Consiglio per decidere se la firma del presidente Lula sia un atto dovuto o discrezionale. E questo è molto importante, perché si nasconde sempre, no? Il diavolo nelle cose. In quest'ultimo caso ciò significherebbe che Lula può rifiutare l'estradizione. Bene, Giovanni, dica. Ma, buonasera, dottor buonasera. Giuseppe, come non sta? È tutto bene? Scontato, non è tutto scontato. Non è che Battisti domani lo riportano in Italia col primo aereo. Ma chi lo sa. Allora, io volevo intervenire riguardo al Popolo della Libertà, alle persone che si ritengono di destra, e vorrei fare un appello: perché non scegliete un leader che abbia quei requisiti di onorabilità, di integrità morale, di non so, di cavalleria, visto che è cavaliere, su cui non si possa avere dubbi? Perché non scegliete un leader, insomma, che sia scevro da tutte queste problematiche, appunto per avere una visione del futuro, insomma? Me lo stavo chiedendo ai miei avversari politici, non nemici assolutamente, avversari politici: perché non scegliete un leader che abbia dei requisiti diversi da questa persona qui? E soprattutto per il futuro avere un confronto politico, un dibattito veramente politico in Italia per risolvere le questioni più annose. Dunque tutto è bloccato da Berlusconi, secondo lei? Non lo so se tutto è bloccato a Berlusconi, certo nel bene o nel male sono 15 anni che è sulla scena politica italiana, europea, dico, voglio dire, quali sono i nodi che ha sciolto? L'immondizia di Napoli? Vabbè, il dibattito sarebbe lungo su quello, sì, che appunto, ha, su quello di positivo o di negativo che ha portato Berlusconi nella politica, sì, appunto, italiana. Poi andremo magari, ma insomma, lei che mi dice, si aspetta elezioni anticipate? Andiamo più sul concreto, sulle non cose. Non lo so se ci saranno le elezioni anticipate, ma se ci dovessero essere, potrebbe essere una possibilità, una chance per il popolo della destra di scegliersi un leader nuovo. Un leader. Beh, se le vuole Berlusconi, se le vuole Berlusconi le elezioni, non credo che si ritiri la vita privata. Lo so, infatti, non lo so, però dipende dalla gente. Io credo molto nella gente, nel popolo, di destra o di sinistra. A me piace la gente, che la gente scelga, si meno scelga male. Un leader nuovo. Io ad esempio, quando una persona era presidente della Roma, a me non piaceva, non è che ho cambiato squadra, io sono dietro dalla Lazio, sono rimasto della Roma, ma non mi piaceva quel presidente. Quando si sceglie un presidente diverso, che più ti aggrada, è pulito, insomma, uno vabbè, sta meglio, non no? So quanto ci sta il paragone. Comunque la ringrazio, Giovanni. Davide da Bergamo, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Volevo parlare appunto per quanto riguarda la privatizzazione dell'acqua. Sì. Io sono in una zona, praticamente San Pellegrino Terme, dove noi l'acqua la beviamo del rubinetto. Io dico, un miglior servizio, anche se il costo sarà superiore, non sarà meglio per tutti, perché come dice che ad Arezzo l'acqua è imbevibile. Neanche se questi signori spenderanno qualcosa di più, ma per avere dell'acqua... Dov'è che è imbevibile, scusi? Ad Arezzo ho sentito dire che non è buona l'acqua. Ma chi lo sostiene, mi scusi, chi lo sostiene che Arezzo l'acqua ma non è buona? Ho sentito dire che ci sono degli acquedotti dove l'acqua è imbevibile, perché è piena di cloro, di additivi e non si può bere. A me non risulta. Ma io l'ho sentito un po' da gente, però ci sono zone che comunque l'acqua potabile che abbiamo in casa non è bevibile, è consigliato, diciamo, di farne dei grossi consumi per uso alimentare. Allora? Se il servizio, l'aumento del costo migliora questo servizio e non si deve poi andare a consumare l'acqua dalle bottiglie, in effetti. Cioè, io dico, la privatizzazione, se dovesse arrivare un miglioramento su questo aumento di costo sicuramente, ma migliorare il servizio, non è a discapito del consumatore, secondo me è meglio per il consumatore. Beh, certo, in un mondo ideale è così, poi bisogna vedere se davvero con la privatizzazione del servizio di distribuzione, della gestione, non dell'acqua, non è che l'acqua se ne impossessano i privati, le fonti, i tubi, è la gestione del servizio, è un'altra cosa, poi ci sono dei bandi che si possono revocare. Sono temporali, non è l'acqua ai privati. Ho sentito il governatore della Puglia Vendola dire una cosa terribile: l'acqua ai privati è una bestemmia contro Dio. Cosa c'entra Dio con l'acqua ai privati? Fabio Benincasa è il capogruppo del Partito Democratico a Napoli. Buonasera. Buonasera a lei. Torniamo a bomba sulla vicenda Cosentino. Le voglio fare ascoltare, caro Benincasa, se qualcuno mi segue, dove c'è il al di là del vetro in regia, Antonio Di Pietro, che è vostro alleato, non in Campania, ma comunque insomma a livello nazionale. A proposito della vicenda Cosentino, il giudice cattivone, ce l'abbiamo? Eccolo. Hanno chiesto l'arresto i giudici di questo signore, l'arresto, ma l'hanno arrestato no, perché? Perché è parlamentare, e siccome è parlamentare, il Parlamento deve dare l'autorizzazione ad arrestarlo. Sto cattivone del giudice non è che è comunista, è semplicemente uno che si intestardisce a voler scoprire se un parlamentare presidente del CIPA è anche un camorrista. Naturalmente Di Pietro è a favore dell'arresto, a favore delle dimissioni di Cosentino, eccetera, eccetera. Un'altra frase di Pietro, a questo diamo le chiavi di casa, un personaggio come Cosentino, sentiamo ancora. Almeno si dimettesse da membro del governo, vuoi fare il parlamentare, ma dimettiti da membro del governo, non ti possiamo dare le chiavi di casa se non sappiamo che cavolo sei. Se, ci sono delle persone che dicono che facevi cresca col clan dei Casalesi, di quelli che ho Cracamorra. Possiamo darti le chiavi di casa? Oh, non si dimette. È il solito Di Pietro, anche efficace. Ora, ho letto l'altro giorno delle cose che mi hanno colpito positivamente, devo dire la verità, voglio andare un po' controcorrente su questo, non mi nascondo che ci siano motivi di opportunità politica in questa vicenda, motivi di opportunità politica sulle possibili dimissioni di Cosentino. Ieri c'è stato un bel intervento da parte di un ascoltatore proprio da Napoli che diceva, insomma, qui non si tratta di corruzione, cioè qui si tratta di morti ammazzati, insomma la camorra ammazza eccetera, e di questo tutti siamo consapevoli che ci possano essere dei motivi di opportunità politica. Però l'altro giorno sul Corriere del Mezzogiorno, se non sbaglio, ben in casa, lei ha se n'è uscito con una considerazione che mi pare, con un ragionamento che mi pare fondato. Nessuno si chiede, lei è capogruppo del PD a Napoli, poi voglio chiederle cosa le è successo, cosa le hanno detto i suoi colleghi, so che molti si sono arrabbiati. E questo lei ha scritto: nessuno si chiede se per caso Cosentino non sia innocente ed estraneo a quanto al momento gli viene contestato solo a mezzo stampa, e soprattutto chi dovrà risarcirlo in tale ipotesi. In realtà non gli viene contestato solo a mezzo stampa, ma insomma all'inizio è stato... La mia dichiarazione infatti era precedente alla richiesta di arresto. E va bene, comunque resta... Ma non è questo il problema. No, ma infatti non è questo. Non ho elementi per difendere o attaccare Cosentino, ma ho visto anche nel recente passato nella mia città troppi uomini distrutti politicamente, messi al pubblico ludibrio dal clamore mass mediatico di inchieste che poi si sono rivelate inconsistenti al vaglio della magistratura giudicante. E dunque, le ho ricordato la vicenda di Giorgio Nunes, che ha costituito un precedente sul quale tutti i garantisti, siano essi politici, giornalisti o semplici cittadini, con serenità e profondo rispetto e fiducia nella magistratura dovrebbero riflettere. E io ho fatto anche una provocazione nei giorni scorsi, ben in casa, esagerando naturalmente, siccome il Partito Democratico è alla ricerca di un responsabile della giustizia, ho detto a Bersani: guardi, insomma, può guardare verso la Campania, verso il capogruppo del PD a Napoli, che ha detto delle cose che qualsiasi garantista dovrebbe dire, secondo me. E mi dica qual è stata la reazione dei vertici, non dico nazionali, ma anche locali del Partito Democratico. Vabbè, naturalmente la tesi che io sostengo, insomma, e le considerazioni che ho fatto, sono considerazioni che sono di carattere generale, che sono riferite in questo fatto, in questo caso specifico, a Cosentino, perché ho visto che Cosentino è stato aggredito mediaticamente molto tempo prima della sua poi effettiva richiesta di arresto fatta dalla magistratura, e con un procedimento di carattere mediatico estremamente forte. Ritengo, tra l'altro, diciamo, che abbia origine proprio all'interno del suo partito. Sì. Fermo restando questo, è chiaro che le reazioni sicuramente non sono positive, anche perché viene mal interpretato il problema, che invece è un problema di carattere oggettivo. Cioè io mi riferisco, vede, se io le ribalto il problema e le dico questo, dico: se io fossi Cosentino certamente non penserei di candidarmi alla regione, probabilmente, anzi, per come sono fatto io, mi dimetterei da sottosegretario, perché io mi dimetterei da sottosegretario per cercare di difendermi. Però le faccio una domanda: e se poi Cosentino fra 5 anni verrà dichiarato innocente e completamente estraneo a queste che sono solo dichiarazioni di pentiti? Io lascio a lei e agli ascoltatori la risposta a questa domanda. Io non ho da difendere Cosentino, che è un mio avversario politico, perché avrei votato contro di lui se fosse stato candidato da Presidente della Regione. Però, dato che qua a Napoli l'anno scorso, proprio di questi giorni, si è suicidato un assessore comunale che si è suicidato, e la gente si chiede ancora perché si sia suicidato, perché pensano che dietro al suicidio di Giorgio Nunes ci sia chissà quale tipo di cospirazione, chissà quale tipo di cosa. E io penso che può darsi anche che Giorgio Nunes si sia suicidato perché non abbia retto all'effetto di vedersi in televisione continuamente con le manette da agenti della DIA che l'hanno portato via da casa, e per sopportare i figli che hanno visto queste scene in televisione e sui giornali. Però ben in casa il problema lei lo pone chiaramente, però deve andare fino in fondo a questo ragionamento, perché non si può limitare a dire io sono d'accordo con lei, cioè che succede se tra un anno, 2 anni, 3 anni poi le rivelazioni di questi pentiti si dimostrano assolutamente prive di... Ma le posso dire una cosa in più? Io, a differenza di quello che dicono alcuni esponenti della PDL a partire dal capo del governo, io non penso che sia un complotto della magistratura, perché anzi io penso che la magistratura facendo il suo dovere, non c'è nessun complotto della magistratura. Io ho fiducia nell'operato della magistratura, al quale mi adeguo. Tra l'altro io sono un avvocato, quindi non avrei motivo, insomma, e sarebbe anche scorretto parlare diversamente. Però penso che il problema ce lo dobbiamo porre tutti quanti. Guardi, quello di Cosentino è un caso eclatante, ma c'è tanta gente che alla fine per qualche esposizione mediatica di troppo si trova veramente distrutta senza avere... Allora, però Benincà, se lei deve andare fino in fondo a questo ragionamento, se lei vuole andare fino in fondo deve dire Cosentino, se c'è ancora, e qui parliamo dell'opportunità politica, se siamo ancora nella fase in cui c'è un mandato d'arresto, che è certamente una cosa importante, accuse diciamo ancora non dimostrate, perché uno si dovrebbe dimettere? Al di là dell'elezione della Campania, della candidatura a presidente della Campania, lì naturalmente anche il partito che deve decidere secondo quelle che sono i motivi di opportunità politica, perché uno non può continuare a fare la sua attività mentre siamo in presenza di una situazione che ancora deve essere definita? Non siamo nemmeno al rinvio a giudizio, adesso questo dico, no? C'è una richiesta di un provvedimento di una misura cautelare, insomma è una cosa molto grave. Io penso che perlomeno le parlo per come sono fatto, per quello che è la mia sensibilità, e la mia sensibilità mi indurrebbe, a parte che ad astrarmi completamente da tale tipo di competizione politica, che non è più una competizione ma è un gioco a massacro, e penserei magari a difendermi. E poi penso anche come forma di opportunità, insomma, ecco, non mi sembra, mi sembrerebbe una sfida alla magistratura, invece questo deve essere un accertamento della verità. Io mi auguro e sono convinto e mi auguro che il partito del Popolo della Libertà, che è il mio avversario politico, non è stato capeggiato in questi ultimi anni da un affiliato ai casalesi, da un affiliato mafioso o affiliato a clan camorristici, ma da un uomo politico che sicuramente poi comunque, vivendo in determinate situazioni ambientali, probabilmente avrà giocato a calcio con qualcuno che poi ha preso una strada diversa. Ma questo è un altro discorso, diciamo, un discorso che non è politico, certo, ma diventa quasi sociologico. Va bene, comunque l'uscita non ha fatto piacere a diversi esponenti del suo partito. Questa sua uscita, questo diciamo, non c'è dubbio, perché mi rendo conto che poi sa, perché prevale il dagli addosso a Cosentino in questo momento, no? Sì, prevale il dagli addosso, e poi prevale anche, diciamo, da parte di qualcuno, diciamo, la sensazione che io abbia voluto dare una solidarietà a Cosentino. Non è così, ho posto un problema. Sa perché l'ho posto? L'ho posto perché quella mattina, quando ho mandato il comunicato stampa, ho incontrato ad un funerale un nostro assessore che l'anno scorso, una persona per bene, un galantuomo, poi non le dico il nome, l'anno scorso è stato per un mese sui giornali, ha avuto un provvedimento di arresto agli arresti domiciliari, è un docente universitario, un avvocato, una persona per bene, sì, che è stato esposto al massacro perché ci sono delle intercettazioni. E poi com'è finita? E poi probabilmente in questi mesi verrà archiviata la sua posizione, o comunque verrà risolta, però quest'uomo ha abbandonato, giustamente ha fatto, la vita pubblica, perché se n'è proprio completamente scappato. Io quando l'ho incontrato ho deciso di fare quest'anza. Forse lei, come molti miei amici di partito, dirà il soggetto meno adatto per farla, però con quel soggetto probabilmente, ma non per quel soggetto, per la rilevanza che Cosentino ha come esposizione esterna, e per quello che sta succedendo, forse il problema viene visto nella sua interezza, altrimenti lei non mi avrebbe chiamato. Può darsi, se lei avesse parlato di un suo collega di Napoli. La ringrazio, ci sono i titoli dei TG. Sì, del tribunale brasiliano all'estradizione di Cesare Battisti, attesa una seconda pronuncia, stabilirà se il presidente Lula deve controfirmare oppure no. Berlusconi, mai pensato al voto anticipato, il nostro impegno è governare per 5 anni, tensione sul voto agli immigrati, fiducia sul decreto che privatizza l'acqua. Chiuso il vertice FAO, il direttore Diouf, deluso dalla mancanza di tanti leader, progressi, ma serve molto di più, il Papa, rispettare i diritti dei bambini. Delitto Meredith, al processo d'appello contro Rudy Gedè, l'accusa chiede la conferma della condanna a 30 anni. Livoriano ribadisce, sono innocente. Caso Cucchi, trasferiti 3 medici dell'ospedale Pertini di Roma coinvolti nelle indagini. Sul corpo del giovane anche presunte bruciature di sigaretta. Prodotti soprattutto italiani sulla tavola delle festività, ordini in crescita per panettoni e pandori. Tra i doni resta il diamante, il sogno delle donne. Arriva New Moon, il seguito di Twilight, prevendite record in tutto il mondo. Andiamo a sentire il TG1, primo titolo, avete sentito, TG5 su Battisti. Primo sì all'estradizione di Cesare Battisti, lo ha deciso il Tribunale Supremo brasiliano dopo l'incontro Berlusconi-Lula. Berlusconi, mai pensato a voto anticipato, maggioranza solida, governeremo 5 anni, immigrati, botta e risposta, Fini Bossi. 2 bambine di 9 anni, un italiano e una marocchina scomparse vicino a Vigevano, si sono allontanate da casa. Ghedè, non ho ucciso Meredith e non sono riuscito a salvarla. Il processo chiesta la conferma a 30 anni di carcere. Uccide la moglie nel sonno, ma è sonnambulo e invoca la legittima difesa. Il giudice chiede l'infermità mentale. Suicida il padre del ragazzo che accusò Michael Jackson di molestie sessuali. Dopo la morte del cantante, il ragazzo ammise di aver mentito. Bene, ascoltatori, Edoardo, provincia di Trento, buonasera. Sale, buonasera, io volevo intervenire riguardo le parole di Pietro che lei ha commentato, no? Dicendo sì, che faceva del terrorismo. Ora, i modi di Pietro sono i modi di Pietro, voglio dire, sono sgradevoli, tutto quello che sono. Però in Italia, come al solito, si fa fatica a parlare praticamente delle questioni. Il discorso della privatizzazione dell'acqua, del servizio di erogazione dell'acqua, in alcune città è stato già sperimentato. Ad esempio, ad Arezzo, io sono aretino, malgrado vivo in Trentino da sì, due anni. Dal 99 ad Arezzo, sì. Dal 99 ad Arezzo, esatto. Il servizio ad Arezzo non è migliorato, la qualità dell'acqua è rimasta quantomeno uguale, se non peggiorata. In compenso è proprio la gestione del servizio per quanto riguarda proprio l'erogazione dell'acqua nei comuni piccoli così è assolutamente peggiorata e soprattutto quello che è aumentato il costo. La gestione dell'acqua è difficile, io non sono contrario alle privatizzazioni. Però mi scusi, io ho qui davanti alcune notizie che vengono da Arezzo, per esempio Franca Fuochi, che è della Federal Consumatori di Arezzo, sostiene che il servizio è migliorato e l'acqua è più buona, ma lo sarebbe stato lo stesso anche senza Nuove Acque, che è la società che gestisce dal 99 le acque aretine, poi dà una spiegazione di questo. Dunque non è vero che l'acqua non è migliorata, primo. Secondo, è vero che c'è stato un aumento delle tariffe, su questo non c'è dubbio. Il fatto che l'acqua non sia migliorata, io francamente sono perplesso. Secondo me basterebbe che uno andasse ad Arezzo a chiedere alle persone com'è la qualità dell'acqua. Io adesso ho la fortuna di abitare in Trentino e quindi quando torno ad Arezzo la differenza la sento ancora di più. Cioè, cos'è un'acqua buona e cosa non lo è. Comunque, il discorso della qualità, che secondo me non è migliorata, ma al di là di quello, il problema della gestione dell'acqua riguarda anche l'erogazione dell'acqua nei piccoli comuni, nei comuni nei quali l'erogazione dell'acqua non è un affare ma è una perdita, e però si tratta di un servizio essenziale, e lì secondo me il nodo della faccenda, per cui senza urlare alla bestemmia come fa Vendola e senza ululare alla luna come fa il Partito Democratico e come fa sempre Di Pietro, però secondo me è un tema che andrebbe affrontato quantomeno a livello di studio nel concreto e poi a livello parlamentare in maniera seria, senza decreti e senza preclusioni di ordine ideologico. Cioè non si può essere politicizzati sulla gestione privata pubblica dell'acqua, secondo me bisogna vedere come funziona dove la gestione è già privata, tipo Arezzo e tipo un altro caso della città nel Lazio, mi sembra Aprile ma non sono sicuro. Sì, Aprile. Dove avevo letto che la gestione privata ha causato molti problemi, insomma sono cose molto delicate, per cui su quelle lì più dei toni, insomma secondo me bisogna stare molto attenti alla sostanza. Lei ha ragione Edoardo, tutto questo non ha niente a che fare con le cose che sono state decise in Parlamento, cioè la possibilità che si possa aprire anche dove non è consentito attualmente ai privati. Andiamo a Udine, Claudio. Buongiorno. Dica. Mi lasci dire, articolare bene, sono due cosette che devo dire. Riguardo, diciamo così, al discorso garantismo, Cosentino Berlusconi. Io non voglio assolutamente che Berlusconi si dimetta, neanche Cosentino, però voglio che siano giudicati se c'è qualcosa per cui debbano essere giudicati. Berlusconi, se non mi sbaglio, appena è caduto Lodo Alfano, ha detto che avrebbe sbugiardato i giudici. Lui ha soldi, tutti i migliori avvocati, che vada a fare i processi e sbugiardi i giudici. Ma non cambi le leggi per poi dire, per non fare i processi o per andare in prescrizione o per far saltare il processo. Altrimenti mi fa capire che è colpevole, o no? Claudio, l'ho già detto nei giorni scorsi, secondo me dovrebbe andare in tribunale a continuare la sua battaglia, perché la sente come un'ingiustizia e penso soprattutto oggi, tra l'altro, anche il giudice Nordio, che certamente non può essere accusato di essere anti-berlusconiano, sostiene che la legge che dovrebbe essere presentata poi approvata dal centrodestra in Parlamento sul processo breve è una cosa che non bisogna assolutamente fare, perché distruggerebbe una serie di cose, metterebbe la giustizia in una situazione molto complicata. Claudio, prego. Questa legge qua vuol dire che se, mettiamo conto, sua sorella o mia sorella o mia madre viene violentata, cioè è da uno che non è stato mai condannato, incensurato, sì. Questo se la caverà sicuramente, cioè bisogna far capire alla gente queste cose qua, perché la gente è ignorante. altrimenti non saremmo. Insomma, non è proprio così, Claudio. Non esageriamo. Non esageriamo, naturalmente. Se non si arriva al giudizio entro due anni dall'inizio delle indagini, non si arriva al primo grado entro due anni. Insomma, qui però bisogna essere chiari: non è che non ci sia questa esigenza, certo, non può essere decisa a tavolino come è stato fatto fino. Non è che non ci sia l'esigenza di accorciare i tempi dei processi, in generale, dico. Poi è vero che questa non è una riforma. La seconda cosa che voleva dire, Claudio? Allora, ricordo il discorso acqua. Sì. Allora, facciamo un discorso. Il discorso che faceva il signor di prima è validissimo per me. E io voglio fare solo pensare alla gente, non voglio dire le cose. Pensateci un momento solo. La gestione dell'acqua al sud, chi la prenderebbe in mano un domani se non la mafia? E cosa succederebbe? È evidente che il privato deve guadagnare, giusto? Allora, un domani che l'acqua non vengono fatti i depuratori, o se vengono fatti male, o se vengono comunque non vengono, diciamo così, mantenuti come devono essere mantenuti. Sì. È evidente che a un certo punto l'acqua degrada, no? Per cui io sono convinto che al sud, se passa una cosa del genere e si va in mano a questa gente qua, questi qua l'acqua, sì e no, che gli andrà bene per lavare. Però mi scusi, a parte che ci sono problemi adesso al sud, nel senso della gestione privata, ci sono già i problemi di distribuzione dell'acqua. Lei dà per scontato che nel business entrerà la mafia, allora non si fa nulla. Allora non si fa nulla, non si inizia, non si costruisce nulla, non si mette su un mattone, eccetera, perché sicuramente c'è la mafia. È un discorso che non accetto, un discorso di principio che non accetto. Bisogna creare intorno a queste cose un controllo in modo che questo non avvenga. Pietro da Frosinone, buonasera. Sì, buonasera, dottor Cosani. Dica. In merito alle elezioni anticipate. Sì. Credo che non si giunga assolutamente, perché Berlusconi ha poi questa dote di mettere un po' d'accordo tutti e quindi credo che comunque non si giunga, tranne vabbè lo scivolone nel 94, ma in quel caso era un novizio della politica, ma qualora comunque si dovesse giungere, ritengo che questa destra, piaccia o non piaccia, sia l'unico governo possibile, insomma, perché comunque la sinistra non ha uomini e sta comunque cercando di risorgere dalle ceneri di un autolesionismo da essa stessa creato. Vai Pietro, adesso insomma, va bene, probabilmente non c'è bisogno di una stabilità politica all'Italia, quello che voglio dire. No Pietro, mi sembra scontato che abbiamo bisogno di una stabilità politica. Non so se la situazione tra Fini e Berlusconi sia sopportabile, cioè si possa andare avanti senza un chiarimento vero, insomma si rischia un po' il logoramento, no? E non solo su quel fronte, questa è la mia opinione. Di due anni ha cambiato tre leader, insomma, voglio dire, sì, Veltroni in questo momento però i problemi non ce li ha solo il Partito Democratico, ce li ha anche il PDL, che mi sembra un'amalgama non riuscito in maniera perfetta, ecco, per usare una definizione di Antonio Polito, direttore dei Riformisti. Pronto? Sì, Pietro, la sento. Sì, chiedo scusa di andare via un attimo. Lei fa una previsione: se si dovesse andare alle elezioni tra poco, vincerebbe di nuovo Berlusconi. Vabbè, vediamo, vedremo. Sì, io... D'accordo, capisco che lei fa il tifo per Berlusconi, però... No, non faccio il tifo per Berlusconi, assolutamente. Era una mia riflessione in relazione al fatto che comunque da una parte, piaccia o non piaccia, comunque c'è un uomo che è stato sempre in grado di mantenere un'unione dal 95 in poi, insomma. Io credo che la sinistra debba maturare facendo opposizione innanzitutto a questo governo, perché comunque è un Partito Democratico che ha avuto il merito iniziale di creare un vero bipolarismo in Italia, poi si è sgretolato completamente e chi crede... Adesso sgretolato completamente non mi sembra l'espressione corretta. Pietro, comunque lei sottolinea il fatto che ancora non c'è un'opposizione credibile, può darsi, ma in questo momento, ripeto, i problemi sono concentrati però più sul PDL. La ringrazio, andiamo in provincia di Bergamo. Angelo, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica Angelo. Senti, io volevo intervenire così per portare la mia esperienza sul discorso appunto della gestione delle acque, sì, che è un discorso un po' più complesso che comprende sì l'acqua potabile, diciamo, ma soprattutto proprio il sistema integrato della gestione delle acque, quindi c'è la depurazione e tutto quello che ruota intorno. Non c'è dubbio. E quindi il problema della privatizzazione in questo settore, siccome ho seguito da vicino, insomma, essendo assessore all'ambiente in un piccolo paese, ho seguito nella provincia di Bergamo queste tematiche ed era emerso proprio che la problematica della privatizzazione di questi ambiti sicuramente avrebbe portato un innalzamento delle tariffe. Delle tariffe. Ora, esatto. Perché è così critico? Ma perché appunto erano emerse durante queste riunioni che si erano tenute in provincia, perché faccio una premessa, la provincia di Bergamo è stata forse l'unica provincia ad aver messo in campo una società che si chiama Uniacque, formata da tutti i comuni della provincia di Bergamo per la gestione di tutto il sistema idrico, per cui senza scopo di lucro, per cui quelli che sono gli interventi e quelle che sono le tariffe servono per pagare quelle che sono gli interventi necessari, lo smaltimento eccetera. Quindi questo secondo me era veramente una soluzione ideale, perché i comuni non fanno cassa, diciamo, cioè arrivano, quello che viene incassato viene speso sul territorio, però tutto il percorso nasce da leggi che da qualche anno che sono sul campo. Però non ho capito, non è che qui si esclude l'idea che in alcuni casi il servizio gestito dal pubblico, chiamiamolo così, possa essere virtuoso. Si apre la possibilità che ci siano anche privati a gestire questa situazione. Certo, sì. Sì, infatti il problema che emergeva erano... Pronto? Sì, la sento. I problemi che sono emersi appunto in queste riunioni, si portavano degli esempi di altri paesi, soprattutto in Germania, dove questo metodo è in funzione da anni, e in alcuni land della Germania il costo al metro cubo dell'acqua superava i 2 euro. Cioè è aumentato? Sì, in modo esponenziale. Ma questo, questo che vuol dire? Cioè, non è che l'aumento del costo dell'acqua, noi paghiamo le tariffe più basse d'Europa, da quello che risulta. Bisogna vedere poi a che cosa corrisponde questo aumento delle tariffe. Bene, Angelo, la ringrazio. Paolo Ricci, buonasera. Buonasera. Buonasera. Paolo Ricci è un aretino, se non sbaglio, sì. Presidente di Nuove Acque Spa, sì. Ed è un caso di scuola di quelli che viene discusso in queste ore. È stato anche sindaco di Arezzo e la Nuove Acque Spa gestisce da dieci anni la rete idrica di Arezzo. Senta, le leggo quello che dice Franca Fuochi di Federconsumatori di Arezzo. È da 10 anni che i cittadini di Arezzo e degli altri comuni serviti da Nuove Acque pagano una delle tariffe più alte d'Italia. Poi ammette che il servizio è migliorato e l'acqua è più buona, ma lo sarebbe stato lo stesso anche senza Nuove Acque. Proprio dal 99 arriva dalla diga di Montedoglio. Cosa c'è da ribattere a queste cose, se c'è da ribattere qualcosa? Ma c'è da ribattere che ha detto delle verità, però delle verità che gli mancano dei pezzi, perché l'acqua, dunque, la società Nuove Acque innanzitutto gestisce la rete idrica di 39 comuni, 35 della provincia di Arezzo e 4 della provincia del Senese. Noi distribuiamo 16 milioni di metri cubi di acqua e dalla diga di Montedoglio ne prendiamo 10 milioni e la paghiamo. Gli altri 6 milioni vengono o dall'Arno o dai pozzi o da tante altre cose. Quindi è vero che la prendiamo da Montedoglio, che è una buonissima acqua, ma è vero altresì che ne prendiamo 10 milioni di metri cubi all'anno, ne distribuiamo 16 milioni. Quindi non è tutto il discorso dell'acqua di Montedoglio, che è già un notevole vantaggio, sì. Ma ben altra cosa. Cioè lei dice che una parte dell'acqua viene da grazie ai depuratori che ha costruito in questi i anni. I depuratori che abbiamo realizzato, che sono sicuramente all'avanguardia in tutta Italia. Ora io voglio capire da lei, Ricci, sì, che è molto critico per come viene presentata la vicenda in queste ore, perché si parla di privatizzazione dell'acqua? In realtà non è così, si fa molto terrorismo mediatico, o sbaglio? No, lei ha centrato perfettamente, io non aggiungere altro, perché questa l'ignoranza o la malafede fa dire a tanti cittadini queste cose. È soltanto un servizio che svolge la società di distribuzione dell'acqua, che consiste però anche nel realizzare potabilizzatori, condotte e poi depuratori. Ma è vero che i prezzi sono aumentati o no? Sono aumentati e come? Ma aumenteranno ancora di più, perché se non vogliamo raccontare fandonie, come qualcuno ancora insiste, aumenteranno, perché non penso che in Francia o in Germania siano più stupidi di noi, si hanno tariffe ben più elevate delle nostre. Questo succede perché noi, quando siamo partiti su una legge base del 94, la famosa legge Galli, che poi le varie regioni hanno dettato tutte le cose. Vabbè, adesso non ci addentriamo. No, il problema qual è stato? Che noi veramente eravamo, non in tutti i comuni, specialmente per esempio Arezzo, che non è merito di quando ero sindaco io, ma dei miei predecessori, era un comune che era all'avanguardia per quello che riguarda la creazione dei potabilizzatori e dei depuratori. Però molti altri comuni veramente non sapevano cos'era un depuratore. Certo. Ma di questi non ci dobbiamo scandalizzare, perché nel 99 Firenze non aveva un depuratore, siamo chiari. Senta, ma di che colore erano le giunte che hanno dato a voi l'attributo? La maggior parte di centrosinistra, immagino, in Toscana, sì, no? Sì, infatti io presidevo una giunta di centrosinistra. Senta Ricci, lei è presidente della società il cui capitale è diviso tra soci pubblici, però i comuni controllano il 53,84, e poi c'è Intesa Retina, società di cui fa parte anche il colosso francese Suez. Dunque non è un privato vero e proprio, non è... No. Dunque, prima di tutto, in questa società di distribuzione, come ha detto lei, il 56% è di proprietà della parte pubblica. Certo. Il 46% della parte privata. Dunque... Nella parte privata è un consorzio, che a sua volta è il consorzio di Intesa Retina, e è partecipata dalla Suez in questo momento, sì, come dalla, certo, CEA. Ecco. Cioè, vorrei dire questo... che quando si dice il socio privato, ma il socio privato che cosa? Al 46%, in questo socio privato c'è la Suez, c'è la CEA, c'è il Monte dei Paschi di Siena, c'è la Banca Popolare dell'Etruria, ecco, sono tutte risorse che ognuno di loro ha dato un loro contributo, sia come apporto, certo, finanziario, certo, sia come know-how. Insomma, nessuno scandalo su quello che sta preparando il governo, addirittura si potrebbe fare meglio, no? No, meglio... segna che si può sempre fare. Ah, certo. Noi siamo stati i primi e naturalmente abbiamo pagato lo scotto, ci siamo fatti una certa esperienza, perché noi il servizio di gestione delle acque le abbiamo iniziato nel 99 e siamo stati i primi in Italia, e la società seconda di gestione delle acque è arrivata 3 anni dopo di noi. Quindi le tariffe nostre, se per qualcuno sono un po' care, o dicono le più care, dicono quello che vogliono, sì. Però bisogna vedere la composizione di una tariffa, bisogna vedere, perché la tariffa come viene fatta è per legge nazionale, e noi tutti gli anni abbiamo un incremento della tariffa che è del 6,50%, così suddiviso, 5% per gli investimenti, l'1,50% per l'inflazione programmata. Quindi tutti gli altri alchimie, calcoli... Ma lei dice che dovrebbe essere più cara l'acqua, aumenterà, lei dice addirittura aumenterà. Ma certo, perché qui non possiamo avere la botte piena alla moglie Briana. 400 euro là, 400 ma euro io l'anno. Io non so a che cifra arriverà, ma se lei considera... No, adesso, dire... adesso dico. Quanto ora? 400 euro l'anno, beh, lo dovrebbe sapere lei, no? No, certo, ma un momento, quando dice 400 euro l'anno, bisogna vedere quanti sono in famiglia e che tipo di abitazione no, ha. No, certo, vabbè, chiaro. Se no è un discorso che non regge, perché se lei ha 100 metri di appartamento, ha un bagno, ha una cucina, sono due persone... Beh, sarà la media, sarà la media. 50, 170 avanzano. Ecco. No, certo, certo. Ecco, quindi va bene, Ricci. Quindi dentro certi parametri. Va bene, la ringrazio, prego. Buonasera. 20 e 26, prego. Cristina da Genova, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Dottor Crociani. Dunque, io come avevo già anticipato alla sua collaboratrice prima, sì, sono un magistrato e volevo cercare di dire due parole a chiarimento sulla proposta di legge sul processo breve, che ritengo assolutamente controproducente ed inefficiente. E vorrei cercare di far capire che al di là della parte politica che la proposta, delle ragioni più o meno nascoste che possono esserci, il problema grosso non è, secondo me, tanto quello quanto il fatto che si tratta di norme assolutamente inutili per affrontare uno qualunque dei mille problemi che la giustizia ha, ed anzi norme che creerebbero ancora più problemi. E quindi veramente credo che anche le persone che fanno parte di questo governo... Sì, ma mi dica, però mi faccia un esempio, Cristina, altrimenti resta un discorso un po' vago, perché già ne abbiamo parlato molto in questi giorni. Sì, però ad esempio il procedimento, lo cito perché se ne è parlato, c'era un articolo sul Corriere della Sera di domenica, sì, contro i medici della clinica Santa Rita, immediatamente verrebbe meno. Un esempio concreto, e anche nel mio piccolo ci sono procedimenti contro ad esempio un truffatore che ha intascato milioni da gente che voleva comprare delle case e che invece poi che non esistevano neppure, persone che investendo per la casa hanno magari pagato tutti i loro risparmi, no? Quindi parliamo di appartamenti, cioè processi che magari sono, ecco, processi che sono magari ancora in primo grado e che non che hanno, che sono in primo grado e stanno per essere completati, anzi e che verrebbero tagliati, e che verrebbero meno. 800 24 00 24, andiamo a sentire i titoli del TG2. Il Tribunale Supremo del Brasile ha accolto la richiesta di estradizione dell'ex terrorista rosso Cesare Battisti. Ora i giudici devono decidere se l'ultima parola spetti al presidente Lula. Berlusconi, non ho mai pensato a elezioni anticipate. Affini, il presidente del Consiglio, dice con lui non ho nulla da chiarire. Sugli immigrati polemica, Bossi Fini. L'emergenza rifiuti in Campania è finita, lo conferma il sottosegretario Bertolaso durante la sua visita con la stampa agli impianti del ciclo rifiuti nella regione. Chiesta la conferma della condanna a 30 anni al processo d'appello per Rudy Guédé, accusato dell'omicidio di Meredith Kircher. Lui dice non l'ho uccisa, non l'ho violentata. Introdotto nell'Ottocento, il divieto per le donne di indossare i pantaloni in Francia non è mai stato abrogato, anche se nessuna lo osserva più, a partire da Madame Carla Bruni, e senza rischiare sanzioni. Bene, Stefano da Genova, buonasera. Buonasera. Buonasera. Dica. Niente, io volevo intervenire rilacciandomi al discorso che faceva lei sul caro acqua precedentemente. Io sono speleologo e diciamo abbiamo una visione abbastanza costante di quello che è un po' la situazione idrogeologica in generale sul territorio. Girando molto si visitano varie cavità e si vede qual è poi la quantità reale d'acqua che la terra ci riconsegna. Ecco, ora è interessante notare che in grotte, sia a livello regionale che nazionale, c'è stata veramente un'effettiva diminuzione della portata idrica. Quindi ora noi stiamo parlando di quello che può costare, di come gestirla, di come specularci sopra, però il problema di fondo è che bisogna prendere coscienza, forse tutti quanti, di quanto stia diventando prezioso come bene innanzitutto. E viene sprecata molta acqua oggi, e viene, no? Sprecata molta acqua, poi le dirò. Il 34% da quello che leggo. Sì, ma poi guardi, se vogliamo proprio andare a vedere, io per esempio gestisco un'associazione che si occupa di archeospeleologia, cioè lo studio delle cavità sotterranee artificiali a livello archeologico. Ci occupiamo anche di tutte quelle che sono le risorse idriche del passato che venivano create sotto le città dagli uomini. Quindi ogni palazzo signorile, per fare un esempio, aveva la sua cisterna con il suo approvvigionamento idrico, eccetera, eccetera. Facendola breve, molte, moltissime città italiane posseggono riserve idriche tuttora attive, molto grandi, allora, fruibilissime, che però vengono ignorate totalmente dalle amministrazioni, un po' per quell'ignoranza nel senso latino del termine, un po' perché forse non si sta troppo attenti a quello che sono le nostre reali risorse, però si continua a lavare per esempio a Genova le strade con l'acqua dell'acquedotto, per dire, è l'acqua che bevono tutti, quando si potrebbe fare con risorse differenti come quelle che l'ho citato poc'anzi. Quindi appunto io le do ragione sul fatto che l'acqua deve costare, perché? Perché chi rovina il porto è il marinaio. Bisogna che a un certo punto il marinaio, che siamo tutti noi, si renda conto di quanto sta cadendo a pezzi, certo, il suo porto. Certo, certo. E appunto io volevo sottolineare insieme a lei questo problema, che forse è ancora più grave dei vari scandali politici ed economici. Quello dello spreco, insomma, quello dello spreco. Sì, perché poi noi viviamo grazie a pochi elementi, come dicevano anche i filosofi greci, acqua, aria, fuoco e terra. Se noi ci pensiamo, stiamo dilapidando l'acqua, rovinando la terra, il fuoco speriamo che non ci si possa far niente e l'aria è quasi irrespirabile. Bene, so bene. Magari è un po' filosofeggiante. No, ma rende l'idea. Grazie Stefano Gaetano, anzi abbiamo Paolo Piacenza, buonasera. Sì, salve Cruciani, buonasera. Dica. Io volevo fare un intervento poco pratico, ma in merito a quello che avete deciso di fare con padre Livio ultimamente, e faccio un po' come fece Socci con la Melandri nel 2003, Excalibur. Le devo chiedere perché una persona così intelligente come lei si deve abbassare a questo livello del dover per forza deridere i cattolici, deridere chi parla di Satana. Scusi, chi deride i cattolici? Lei facendo sentire Paolo, prima... Lei non ha capito lo spirito della nostra rubrica sul padre Fanzaga, allora. Mi dispiace, cioè, magari abbiamo comunicato male noi, ma certamente non è derisione nei confronti di Fanzaga. Non è una derisione nei confronti di Fanzaga quando parla di Satana e tutto. Volevo solamente dirle che l'esperienza della fede, magari lo sa meglio di me, magari l'ha fatta anche lei, un'esperienza concreta che si può condividere, che però non fanno extraterrestri, ma fanno proprio persone normali, come per esempio posso essere io, addirittura può essere lei. E mi è sembrato sinceramente un attimino aggressivo, visto che va tanto di moda essere così laicisti nei confronti dei cattolici, fare un po' come fa Scalfari tutti i giorni, che è un consiglio solamente che vuol dare, di non si abbassare, di non abbassarsi a questi livelli. Guardi, Paolo, bisogna sempre vedere come uno fa le cose. Siccome qui non abbiamo tabù di nessun tipo e possiamo tranquillamente prendere in giro chiunque quando la cosa ci attira, quando la cosa ci stimola, il modo di fare la rassegna stampa e i suoi interventi su Radio Maria da parte di Livio Fanzaga ci ha stimolato questa rubrica, che non vuole essere una presa in giro. Usa certe espressioni padre Fanzaga che fanno anche sorridere, magari sono efficaci, probabilmente, anzi sicuramente sono efficaci, ma noi ci possiamo permettere di fare della sottile ironia e talvolta della satira anche su padre Fanzaga. Non vedo dov'è il problema, francamente. Ma ci mancherebbe, non è che telefono solo per un problema, volevo sapere solamente perché, se riesce a rispondermi, perché bisogna fare. Scusi, ma lei le ha sentite le tutte, espressioni? Guardi, ascolto due radio, che sono Radio 24. D'accordo, e la ringrazio. E la ringrazio. Radio Maria, no, ma per non fare pubblicità, e Radio Maria. No, però Paolo, mi scusi, se lei segue padre Fanzaga, lei capisce perché abbiamo creato questa rubrica, che non vuole essere, come lo stesso Fanzaga ha scritto, secondo me perché è poco informato, di derisione nei suoi confronti o di presa in giro nei suoi confronti, nella maniera più assoluta. È un modo di affrontare le cose da parte di Fanzaga che a me fa sorridere, non è professionale come il mio, perché ha un modo tutto suo di affrontare le cose. Certo, ma che è un modo di un'esperienza, l'esperienza di fede. Lei magari è un laico. Ma è una questione di essere laico, magari... non è che ognuno di noi ha la cosa, laico, credente, non credente. Siamo tutti alla ricerca di qualcosa. Giusto, benissimo, visto che però parla anche di cose concrete, la gestione delle acque, la politica, cose bellissime, interessantissime. Assolutamente. Può anche, visto che magari adesso di ridere, può anche parlare per esempio della fede, di che cosa vuol dire fare un'esperienza di essere. Ma chi ne dovrebbe parlare, mi scusi? Lei, anche lei. Come Paolo, sai, guardi, come questa non è una trasmissione in cui si parla dell'esperienza della fede, cioè, può capitare che ci siano degli ascoltatori che intervengono e ci raccontano la propria storia, però va bene, l'unica cosa che voglio dire è che mi consiglio di non abbassarsi, perché abbassarsi a un livello, perché quando mi viene in mente la musichetta che fate sempre su Radio Londra, sempre simpatica, no? E lì penso che prendiate in giro magari Di Pietro e le sue esternazioni, non vorrei arrivare allo stesso livello con padre Livio, che mi sembra che faccia proprio tutt'altro, basta, è solamente questo. Ringrazio Paolo. Anche Domenico lei, da Pisa, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Dica. L'intervento, volevo intervenire sull'acqua, brevemente. Sfatare prima di tutto un discorso non è vero che le acque in bottiglia sono poi, in teoria sono, diciamo, anche dei parametri per legge previsti di sostanze inquinanti anche più alti di quelle potabili, diciamo, di città, d'acquedotto. Questo per motivi, perché le acque minerali naturali dovrebbero essere, diciamo, così come sgorgano dalla sorgente, imbottigliate, quindi se si stringono troppi parametri poi diventa difficile trovare un'acqua minerale disponibile, diciamo, per il mercato. Hanno un altro tipo di finalità. Dunque, dato non è assolutamente vero che l'acqua di acquedotto di potabile è peggiore dell'acqua minerale, questo è anche previsto per legge, basta andarsi a vedere un attimino i parametri chimici, diciamo, dei contenuti che devono essere nelle acque minerali e nelle acque potabili a consumo umano. Poi l'altro discorso invece per quanto riguarda la privatizzazione, in teoria io come si fa a non essere d'accordo su una cosa che potrebbe anche migliorare? Di fatto basta un po' andare a vedere quello che è successo alle privatizzazioni in Italia, soprattutto in Italia, con una serie di privatizzazioni sono state delle poste o dei telefoni che poi non mi sembra siano tanto migliorate. Io vivo in un posto dove la privatizzazione è già in atto in parte sulle acque e noi abbiamo visto rincari sostanziosi da quando era tutta pubblica a quando è diventata privata. quindi voglio dire che in teoria sarei favorevole, in pratica, visto come sono andate anche le cose su altre privatizzazioni, non mi convince molto questa cosa. La ringrazio, Roberto Provincia. Sì, dica Roberto. Sì, no, volevo dire su Battisti, finalmente speriamo di vederlo estradare in Italia e che sconti la condanna che da tempo cerca di scansare. I tempi pare non siano comunque veloci, perché bisogna innanzitutto aspettare una decisione definitiva dal punto di vista delle carte, e poi c'è la questione di quanto deve scontare in Brasile per i documenti falsi e altre cose ancora. Bisognerà aspettare. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti. E perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti? Siamo qui con Battiato, che oggi incredibilmente, dopo queste sue canzoni, dopo questa sua canzone in particolare, ma anche quella su Povera Patria, che era in realtà un po' più generica, qui c'è un riferimento diretto ai festini. I festini del Premier, forse, credo, anzi. Togliamo anche forse. Ha detto incredibilmente a Chiambretti che un artista non dovrebbe fare politica. Truffatori, se non avessero moneta sonante da gettare come ami tra la gente. Giuseppe ci chiama dalla provincia di Caltanissetta. Buonasera. Buonasera a lei, dottor Cruciani. Dica. Innanzitutto volevo, dopo tanto tempo che provo a chiamarla, volevo fare veramente complimenti per la, non solo per la trasmissione, ma soprattutto per il suo modo di comunicare. Va bene, dica. Niente, volevo soltanto replicare su quello che hai appena detto in merito al fatto che Franco Battiato come artista non dovrebbe fare politica. Io sì, vivo nella provincia di Caltanissetta, ma per motivi di studi ho studiato a Catania, che è la città, come ben sa, del residente dell'artista. E circa 5 anni fa, volevo appunto smentire le ultime parole dette da Franco Battiato appunto a Chiambretti, perché 5 anni fa non solo ha sostenuto la politica di Bianco, che era l'alter ego all'epoca del sindaco Scapagnini. L'avversario, non l'alter ego. L'avversario di Scapagnini, ma sì. addirittura, sempre in una pubblica piazza, e se non sbaglio anche durante un'intervista in una radio locale, disse che nell'ipotesi in cui avesse vinto il centrodestra e quindi la persona di Scapagnini, lui avrebbe ovviamente diseredato Catania. Sì, ricordo che sarebbe andato via da Catania. Eccetera. Ma l'ha fatto poi? No, perché lo chiamavo semplicemente per dire che effettivamente l'ipocrisia è talmente tale che anche artisti di una certa conclamata cultura di qualsiasi genere, sia filosofica che artistica, così come il suo carissimo amico Galambro, effettivamente trattano sempre, cioè a me sono d'accordo con lei sul fatto delle etichettature, quindi etichettare anche un artista comunque di centro-sinistra o di centro-destra, sinceramente, anche se in realtà di centro-destra ancora devo conoscere gli artisti, dispiace. Però in questo modo, non è questione di etichettatura centro-destra o centro-sinistra, ho fatto notare una piccola contraddizione, sì, quando dice un'assoluta contraddizione, gli artisti non dovrebbero fare politica, in realtà poi parlando in questo modo di Povera Patria e di festini, lanciando gli strali contro la classe politica, insomma, io vorrei leggervi come presenta Repubblica l'intervista a Battiato su XL. Invettiva all'Italia, la speranza che invocavo in Povera Patria è andata spegnendosi. Il suo potente atto d'accusa. C'è davvero qualcosa di inquietante che sta succedendo in Italia. Poi uno va a leggere e non si capisce dov'è l'inquietudine e dove siano le cose inquietanti di cui ci parla Battisti. Luigi da Pescara, buonasera, andiamo più veloci, siamo verso la conclusione. Buonasera, senta, io volevo intervenire per quanto riguarda il fatto sul randagismo, sulle code dei cani. Le code dei cani, che c'è da aggiungere sulle code dei cani, Luigi? Che praticamente ci sono razze e razze, io posseggo parecchi cani da caccia, per quanto riguarda il fatto del taglio della coda, quello è soltanto un bene per il cane, nel senso che sono cani che andando a caccia nei roveti e nelle cose la coda gli crea soltanto dei sanguinamenti e quando nel passare del tempo li porta anche delle malattie. Dunque è giusto ai cani da caccia tagliare la coda se uno vuole? Sì, se uno vuole sì, e il fatto che va fatto quando il cucciolo è appena nato, che non gli crea dolori e problemi. È logico, se un cane ha già 4-5 anni, tagliargli la coda è soltanto una sofferenza, ma se un cucciolo con un piccolo intervento fatto dal veterinario non crea tanti problemi. Ma secondo lei è materia da discorsi, dibattiti parlamentari? Sinceramente. No, per i dibattiti parlamentari sono cose molto più importanti dell'Italia che riguarda questo. Ho preso a cuore perché riguarda il randagismo, le cose, l'Italia anche su questo va molto storto, perché io girando tutta l'Europa, il randagismo che sta in Italia, il maltrattamento dei cani che si vede in Italia, nelle altre parti d'Europa non esiste neanche a pensarlo proprio. Va bene, grazie. Diego da Lecce, buonasera. Buonasera, direttore. Volevo solo fare una piccola volevo fare solo un piccolo passaggio riguardo una sua affermazione che riguarda un presidente della mia regione, Nichi Vendola. Sì. Sono pugliese, da Lecce. Sì. E prima faceva notare come il presidente Nichi Vendola abbia difeso la pubblicità, nel senso l'acqua pubblica, dell'acqua. Sì. Dicendo che la privatizzazione è come una bestemmia contro Dio, è un atto contro Dio. Conferma e sottoscrivo, perché sarebbe come attaccare non solo attaccare il diritto fondamentale dell'uomo, della pubblicità dell'acqua è necessaria, perché si iniziano così una serie di speculazioni che vanno ad attaccare anche i diritti fondamentali, secondo me. No, mi scusi, ma non è che un circolo virtuoso. Ma perché lei dà per scontato che ci sia una speculazione? No, voglio capire. Sì, allora, innanzitutto perché stiamo andando, ripeto, ad attaccare un ambito particolare, talmente pubblico, che secondo me la speculazione, quando si ha a che fare appunto con il pubblico, è quasi naturale. Vabbè, ho capito, però Diego, questa è una posizione di principio, abbia pazienza. Qui siamo di fronte al fatto che alcuni servizi ormai possono essere anche gestiti dal privato, e non vedo perché si debba sottrarre l'acqua a questo ragionamento. Francamente non è che viene tolta l'acqua a chi non paga, è una cosa un po' diversa, Diego. Agitare il fantasma dell'acqua privata come se fosse una sorta di mannaia su chi non può permettersi di pagare un po' di più l'acqua potabile, mi sembra che sia un'operazione terroristica, insomma, da questo punto di vista. Secondo me è necessario. Vabbè, è un'opinione diversa. No, certo, una piccola considerazione. Va bene, grazie. Velocissimamente, Luigi da Viterbo. Buonasera. Beh, mi permetta subito di dissentire con lei a questo punto, perché mi dispiace, abbiamo altri casi di privatizzazione in Italia dove non c'è stato nessun vantaggio per i consumatori. Per esempio, voglio dire, la benzina, non mi sembra che la benzina abbia avuto dei vantaggi. Sì, certamente, cioè voglio dire, c'entra la benzina, secondo me la benzina una volta aveva un prezzo che era stabilito dallo Stato, e quindi quello era, guarda, adesso con le privatizzazioni ci sono aumenti costanti senza che questo possa essere per l'appunto assolutamente non mi sembra telecomunicazioni. Luigi, la benzina non c'entra nulla, l'energia elettrica possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, ma insomma a me sembrano cose positive in generale le privatizzazioni di questi settori. Poi naturalmente bisogna vedere come vengono gestite queste privatizzazioni e bisognerà osservare molto da vicino anche la vicenda dell'acqua, naturalmente, che non è la privatizzazione dell'acqua ma del servizio di distribuzione, per l'ennesima volta lo ripeto, ma ci sentiamo domani 18:30. Ciao.